Avventurieri, siete sopravvissuti alla furia delle rapide, ma la vostra imbarcazione non ha avuto la stessa fortuna. È stata completamente distrutta. Ora vi resta solo una possibilità: nuotare fino alla terraferma. Davanti a voi si aprono tre percorsi fluviali, ma solo uno offre le correnti più favorevoli per una nuotata rapida e sicura. Scegliere con attenzione sarà fondamentale. Ecco cosa vi attende in ciascun percorso. Nel percorso A, una corrente vi spinge nella vostra direzione a 9 metri al secondo, ma un'altra opposta vi rallenta a 6 metri al secondo. Nel percorso B, due correnti vi spingono nella direzione giusta, una a 3 metri al secondo e l'altra a 4 metri al secondo, ma una vi ostacola a 2 metri al secondo. Nel percorso C, una corrente vi aiuta a 7 metri al secondo, ma ce n'è una contraria che vi frena a 1 metro al secondo. Quale percorso vi offre la spinta più favorevole per raggiungere la terraferma nel minor tempo possibile?